Trovare la vera sapienza in un universo di idee è come trovare un ago in un pagliaio. È indiscutibile che tutti si arroghino il diritto di possedere la vera sapienza, ma è altresì indiscutibile che ignoranza, stupidità e follia crescono nell'immenso giardino delle opinioni come l'erba dannosa. Cresce dove vi è anche solo un poco di terra. Se voglio essere obiettivamente onesto, anch'io a volte credevo di parlare e di ragionare con la vera sapienza, ma in seguito mi sono reso conto che le mie opinioni non corrispondevano alla realtà. Questo spiega perché sia così tanto difficile possedere la vera sapienza. Normalmente si è convinti di possederla senza avere coscienza che la realtà contraddice tale convinzione. Dunque, trovare la vera sapienza è un bene accordato a pochi, a coloro cioè che sono coscienti che essa sia rara, e per questo la cercano come uno dei beni più preziosi. Infatti, tutti siamo venuti all'esistenza, ma non tutti viviamo in armonia con la vita. Tutti svolgiamo un lavoro, ma la nostra giusta attitudine verso di esso ne fa diminuire la fatica. Per questo la sapienza viene lodata da tutti, anche da chi non la possiede, e particolarmente dalla parola di Dio. Ec 2.13. Batvacis bannai. Mi resi conto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Ec nun lao, c 7.11. La sapienza è buona assieme a un patrimonio ed è vantaggiosa per quelli che vedono il sole. Ec nun lao, 7.12. La sapienza è un riparo come lo è il denaro. E C7.12. La sapienza fa vivere quelli che la possiedono. E C7.19. La sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti in una città. E C8.1. La sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. E C9.16. La sapienza val più della forza. E C9.18. La sapienza val più delle armi da guerra. Ec 10.10. La sapienza ha il vantaggio di riuscire sempre. Dopo una valutazione del genere in merito alla sapienza, è indispensabile prendere sul serio la nostra ignoranza e cercare con tutte le nostre forze la vera e intramontabile sapienza, e questo se non fosse perché è giusto almeno per interesse, e cioè per vivere meglio. E, risaputo che la fede cristiana è l'unica fede che ha le sue radici in un'altra fede, e cioè quella ebraica, e poiché la divinità dei cristiani è la stessa degli ebrei, va da sé che la fede cristiana non è altro che il completamento della fede ebraica. Perciò, se nella fede cristiana vi è la sapienza, questa scaturisce dalla sapienza della fede ebraica, e se la fede degli ebrei è una fede di sapienza, questo non è merito del popolo ebraico, ma del Dio Trino che ha voluto rivelarsi loro. Infatti, se il Dio che ha creato i mondi si è rivelato ad un popolo, è inevitabile che chi ne ha raccolto la sua rivelazione sia intelligente, e se il popolo ebraico ha per millenni conservato gelosamente la rivelazione del Dio Trino, allora è un popolo che non può essere ignorante. Ho sentito ultimamente sostenere con forza che il popolo ebraico è il popolo più ignorante, ma chi lo diceva inconsapevolmente mostrava senza saperlo tutta la sua ignoranza, perché il bene che hanno arrecato le leggi di Dio a tutta l'umanità è incommensurabile. Da notare che non è il popolo ebraico a aver arrecato del bene all'umanità, ma sono le leggi miracolosamente conservate da Dio, anche se il popolo ebraico ha il merito di aver fatto conoscere la rivelazione di Dio. Che le leggi di Dio siano rette, giuste e dettate con sapienza ne sapeva qualcosa Mosè, che le ricevette direttamente, che più di una volta ne mise in evidenza il valore. Ecco, io vi ho insegnato statuti e decreti, come l'Eterno, il mio Dio, mi ha ordinato, affinché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: «Questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente». Deuteronomio 4.5-6. L'Eterno si scelse Abramo perché fosse un suo testimone. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 12 figli che divennero 12 tribù. Quando raggiunsero il numero di qualche centinaia di persone, scesero in Egitto e dopo 430 anni divennero circa 3 milioni di persone schiave del faraone. Gli israeliti erano numerosi, ma non erano ancora un popolo perché, per essere tale, occorre avere regole, statuti sociali e morali, e gli israeliti non avevano nulla di questo. L'Eterno liberò gli israeliti dalla schiavitù di Egitto tramite Mosè, e sul monte Sinai diede agli israeliti per mezzo di Mosè delle leggi civili, morali e cultuali, divenendo in tal modo un popolo a tutti gli effetti. Ora Israele aveva le sue leggi come ogni altro popolo, anche se queste leggi non erano come quelle degli egiziani dove avevano dimorato per 430, e neppure come quelle degli abitanti della terra di Canaan che dovevano conquistare, perché le leggi del popolo di Israele provenivano direttamente da Dio. Mosè diede questi ordini poco prima che la nazione di Israele occupasse una terra abitata da altri popoli con culture e morale diverse, perciò gli israeliti nell'osservare le leggi di Dio erano costretti a comportarsi in modo diverso da tutti. Essere diversi non è mai facile, soprattutto quando si è in minoranza. E il popolo di Israele doveva vincere questo complesso di inferiorità. Non è molto diverso oggi quando i cristiani si trovano ad avere un comportamento diverso dalla società nella quale vivono, e a causa del quale spesso sono perseguitati, torturati o uccisi, colpevoli solo per aver osservato i comandamenti di Dio. Cambieranno i tempi e i modi, ma da che è mondo chi ubbidisce a Dio si rende nemico della società, perché questa fonda i suoi valori morali sulla mutevole opinione umana. Ciò che oggi è giusto, domani è sbagliato. Cioè che oggi è sbagliato, domani è giusto. Non molto tempo fa era una vergogna anche solo nominare l'omosessualità. Oggi è una vergogna condannare chi pratica l'omosessualità. Dove sta dunque la vera sapienza, o detto diversamente, il giusto comportamento? Si potrebbe rispondere che sarebbe sufficiente acquistare sapienza, come si impara a leggere e a scrivere, ma non basterebbero 1000 anni per imparare tutto ciò che occorre, dato che circostanze e persone cambiano. Come allora risolvere questo problema? Dio ha dato un rimedio: ubbidire ai suoi comandamenti. Una risposta del genere per molti sa di religiosismo o fanatismo religioso, perché si conclude sempre nell'invitare le persone ad osservare ciò che è scritto nella parola di Dio, quasi che non ci fosse altra alternativa. Il fatto è però che non vi è proprio altra alternativa, dato che il concetto del bene e del male per l'uomo sono opinabili e mutevoli. Inoltre, pretendere che tutte le persone debbano acquistare sapienza, come si deve imparare a leggere e a scrivere per essere promossi, sarebbe una pretesa che va a discapito di chi non è portato alla riflessione o non ha le capacità per acquisire sapienza. Se il principio di Dio fosse che tutti debbano acquisire la sapienza per avere sapienza, questo principio farebbe torto alla maggioranza della popolazione mondiale, soprattutto quella analfabeta. Eppure, pur sapendo questa grande difficoltà e conoscendo la svariata varietà delle persone, Dio chiede all'uomo di agire con sapienza. Come è possibile farlo? Dio ha dato un principio che è valevole per tutti, e lo possiamo spiegare con un esempio. Io non so giocare a scacchi, e se il campione del mondo degli scacchi mi chiedesse di giocare con un comune avversario, esprimerei subito la mia incapacità, ma se lui promettesse di insegnarmi le mosse, potrei anche farlo e sarei sicuro di vincere. Io rimango sempre ignorante, dopo la sua promessa non avrei aggiunto niente alla mia conoscenza, ma se voglio vincere devo solo ubbidire a ciò che lui mi dice. Questa è la mia sapienza. Non è una sapienza intrinseca che possiedo, non ho dovuto andare a lezione di scacchi, ma la mia sapienza sta nel muovere le pedine come mi ordina il campione del mondo, sia che comprenda che non comprenda. La mia cieca obbedienza e il mio più totale abbandono agli ordini del campione del mondo di scacchi sono la mia sapienza. Così è della sapienza nella vita cristiana. Noi non sappiamo come agire nelle situazioni della vita quando vi è dell'ingiustizia e dell'odio, come comportarsi con i figli, con il coniuge, con il vicino di casa, insopportabile come ci si deve relazionare con altre fedi, ma da Cristo Gesù abbiamo ricevuto gli ordini in merito a come agire e reagire e mettere in pratica i suoi insegnamenti e la nostra sapienza agli occhi delle persone. Succede che con l'andare del tempo, a forza di ubbidire, si impari come ci si deve comportare in certe circostanze, ma questo non fa altro che dimostrare quello che si è detto, che la vera sapienza sta nell'osservare le regole del grande maestro di scacchi della vita, cioè Cristo Gesù, e che nel praticare i suoi comandamenti si acquista la vera sapienza. Non a caso troviamo scritto nel libro dei Proverbi che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Proverbi 9:10. E il timore dell'Eterno non è un sentimento di paura, ma è nientemeno l'osservanza dei comandamenti di Dio. Così, davanti a Dio non vi sono scuse per chi avrà un giudizio di condanna da parte sua, perché Cristo non ha mai chiesto di comprendere la sua volontà prima di metterla in pratica. Non ha chiesto di diventare dei teologi, ma semplicemente di osservare ciò che ha comandato, di credere che le sue leggi indichino il giusto comportamento e la vera sapienza, anche se un mondo intero deride e condanna chi le pratica. Il popolo di Israele aveva la vera sapienza a portata di mano nella legge divina, ma si è prostrato davanti a statue e adorato altri deità, ed oggi coloro che si prostrano davanti a statue, pregano i morti e annullano la volontà di Dio con la loro tradizione, possono avere la vera sapienza? Un interrogativo inquietante al quale non possiamo sottrarci. Nella parola di Dio sta scritto che Cristo è stato fatto sapienza per il credente ed è a Lui che ogni creatura deve andare per sapere come deve comportarsi. Aprile 2007. Ellero,